giorno con te è la fortuna più grande per me, pure se così diversi noi. Tu con quella voglia di vita che ormai hai contagiato tutti i giorni miei, vita che non passa mai. E com'è bello vederti ridere per qualcosa che di stupido dirò, sorriso che per me paradiso è. E forse non finirà mai con questo grande amore che ho, volare sopra tutta la città per non scendere più. Parlerò di te con le stelle lassù, dirò che una in terra c'è e ora è solo mia. Parlerò di te, dirò che se te ne andrai non sarà più vita perché andrà via con te. Forse non dimenticherò quando scendesti le scale, lo sai, un brivido che è ancora qui. Non ci ha divisi la cattiveria di quei cari vecchi amici là, che resteranno soli non come noi. Forse non finirà mai con questo grande amore che ho, volare sopra tutta la città per non scendere più. Parlerò di te con le stelle lassù, dirò che una in terra c'è e ora è solo mia. Parlerò di te, dirò che se te ne andrai non sarà più vita perché andrà via con te, andrà via con te. Parlerò di te con le stelle lassù, dirò che una in terra c'è e ora è solo mia. Parlerò di te.